cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene. Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. E al cross di Cerci, prova la girata Pazzini, Giampaolo Pazzini, 38esimo, il Milan è in vantaggio. Torino purtroppo siamo rimasti in 10, non ho potuto sfruttare i cambi perché avevo in mente di mettere Pazzini, Cerci e Sharawi, poi rimani in 10, ho dovuto usare il secondo cambio per Muntari che era a rischio rosso e allora sai ti cambia un po' le carte in regola, però avere tutte queste armi a disposizione possa per me essere molto importante. Con un poco di zucchero la pillola va giù. Perché Pazzini non possa essere titolare sempre? Beh, lei risponderà che c'è Menezza, concordo. Perché però qualcuno deve stare fuori. Non è possibile, lei non pensa che possano coesistere, che possano giocare insieme? Eh sì, però bisogna lasciare fuori il Sharawi o Cerci o Buonaventura. È dura. Non è facile scegliere, insomma. Per cui io cerco di avere sempre un certo equilibrio, nonostante, insomma, quando posso cerco di sfruttare le qualità offensive della mia squadra, perché lì è probabilmente dove abbiamo più qualità. Buon pomeriggio a tutti. Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ma tanto c'è già la giostra degli attaccanti. Pazzini andrà alla Juve, destro al Milan, con c'è un vertice tra l'altro, Sabatini destro, il Milan ha appena smentito l'interesse per destro, quindi siamo ancora più portati a pensare che questo scambio si possa fare. Dunque la giostra: Pazzini alla Juventus, destro al Milan, Mario Gomez alla Roma e Osvaldo alla Fiorentina. Ci può stare ed ecco servito quello che potrebbe essere il valzer degli attaccanti. Intanto 800240024 è il vostro numero verde per parlare di arbitri, soprattutto perché so che è il vostro argomento preferito, non il mio. Parleremo di un sacco di altre cose. Arriverà più tardi ai nostri microfoni anche Leo Turrini, parleremo di basket. Pardo sta arrivando, tre minuti è qui al telefono con noi. Tra strilli continui, tweet, dichiarazioni, comunicati, sarà solo la Coppa Italia, ma mi pare una Coppa Italia perfino diversa. Ieri sera il Milan ha dato tutto per battere il Sassuolo e a sottolineare la ritrovata importanza della Coppa Italia ci sono anche qui polemiche arbitrali di Francesco. Ma come, quel gol a me l'hanno annullato alla fine, allo scadere del primo tempo, non era molto diverso da quello di Cáceres. Poi è stato visto che il gol era in fuorigioco, ma vabbè, questo conta poco. Comunque, ci sono perfino polemiche arbitrali in Coppa Italia, pare una Coppa Italia perfino diversa, il Milan ha dato tutto per battere il Sassuolo, a Torino domani ci sarà il tutto esaurito, io non mi ricordo un tutto esaurito in Coppa Italia, infrasettimanale naturalmente, ci sarà il tutto esaurito per Juventus-Verona, costava 10 euro, quindi poco, brava la Juventus a mettere in atto questa iniziativa, però intanto stadio pieno, Coppa Italia che da tutto sommato schifo non fa, da diritto ad un posto in Europa League, alla Supercoppa Italiana che l'anno prossimo si giocherà in Cina, il nuovo gigantesco mercato. Sono rimaste in corsa quasi tutte quelle che contano, tranne Genoa, Palermo, Chievo e Cesena, non c'è nessuna di Serie B. Ovviamente la Coppa Italia è snobbata e vessata dal calendario che la sbatte di qua e di là, dove ci sono i buchi d'inverno, di notte. Ottavi e quarti si giocheranno in infrasettimanale, naturalmente tra gennaio e 4 febbraio, su campi magari al limite della praticabilità. Poi ci sono le semifinali orribilmente distanziate di un mese, 4 marzo e 8 aprile, le date ancora indicative, però alla fine, con questa classifica liquida, come piace molto dire al mio amico Pardo, la Coppa Italia diventa, per tutte quelle che stanno sotto le prime due, un oggetto del contendere e anche potrebbe essere una fonte di denaro, visto che alzare la Coppa Italia potrebbe valere tra i 5 e i 6 milioni di euro, e in questo momento in cui si contano anche le noccioline qualcosa vorrà pur dire. Intanto c'è De Laurentiis che risponde a Nicchi, contesto totalmente l'accusa di Nicchi, il comunicato di ieri. Le accuse di Nicchi nei miei confronti, i miei tweet sono semplici, essenziali e assolutamente non offensivi, perché fotografano la realtà dei fatti ampiamente poi condivisa e ribadita da gran parte dei media. Questa volta però, in una partita così delicata, sono stato zitto da Pechino, non parlo di arbitri. Questa volta però, in una partita così delicata, la macroscopicità degli errori è stata tale che ho ritenuto opportuno evidenziarli. Il pensiero personale che ho inteso esprimere ha l'unico significato di evidenziare l'inadeguatezza dell'attuale sistema e la necessità urgente di un'urgente revisione dello stesso, come l'introduzione della moviola in campo che da anni ho sollecitato. De Laurentiis, da uomo di cinema, non può che volere il cinema della moviola in campo. Ma anche altra tappa e altra puntata del derby della capitale con Pallotta che si scrive di suo pugno la risposta a Lotito. Lotito continua a rilasciare dichiarazioni sciocche che denotano ignoranza intorno agli aspetti economici del nostro club. Scritto in una nota del club giallorosso: la prossima volta che verrò a Roma sarà mia cura cercare di renderlo edotto in merito alla nostra solidità e redditività finanziaria. Lo farò come se parlassi a un bambino, ovvero parlando lentamente e scandendo bene tutte le sillabe. Se non dovesse capirlo neanche questa volta, allora rinuncerò. Lotito ovviamente ha risposto: Pallotta si ricordi che nel solo 2014 ha speso oltre 38 milioni e presentato un patrimonio netto negativo consolidato di oltre 81 milioni. Gli auguriamo che a partire dal 1 luglio 2015 sia in grado di rispettare le norme del fair play italiano, norme che la Lazio rispetta da oltre 10 anni. Traffico. Non condivido il fatto della bella chiamata, perché se no torniamo con gli episodi di Napoli, Milan, noi siamo il Sassuolo, siamo piccolini, magari si ragiona meno. Non mi interessa comunque parlare dell'episodio, dal mio punto di vista quando c'è un piccolo dubbio cosa dice il regolamento? Nel dubbio niente bandierina, ha ragione Di Francesco su questo, però... Perfetto. Convocati. Chiede sia la fase difensiva che quella offensiva, e in fase offensiva di puntare sempre l'avversario, di metterlo in difficoltà. Oggi credo di esserci riuscito e niente, poi sta nelle mie caratteristiche comunque sacrificarmi, cercare di aiutare anche il mio compagno, per cui sono fatto così e niente. Questo era Stefano Enciaraui, che reclama anche lui spazio e posto. Poi Inzaghi dice: ma devo fare delle scelte, quindi vabbè, pazienza, sta sempre fuori. Però Enciaraui, o Cerci, o Menez, o tutti questi, magari tra un po' avrà anche destro. Ciao Pierluigi Pardo, ci sei? No, adesso arrivi Pierluigi Pardo. Intanto c'è Sara che scrive: dopo García anche Pallotta con velocità ha imparato qual è il più popolare mestiere italiano, cioè fare polemiche. 800 24 00 24. Dicevamo di una Coppa Italia che diventa improvvisamente causa liquidità della classifica. Pierluigi Pardo, ciao. Eccolo. Particolarmente importante. Tanto Pazzini ieri ha segnato, ha giocato anche una gran gara, secondo me. E si è già partita la giostra dell'attaccante. Pazzina alla Juventus, destro al Milan, Mario Gomez alla Roma, Osvaldo alla Fiorentina. Sì. Può essere, l'ho letto anch'io. Ma tra Pazzini ieri sera innanzitutto ha dimostrato di essere ancora un giocatore di calcio e anche di un certo livello. Tu avevi dei dubbi, Pier? no, io non avevo dei dubbi, io ero abbastanza arrabbiato, no, perché non mi frega niente, insomma, però diciamo un po' perplesso. Perplesso, esatto, perché insomma uno come Pazzini, qualche possibilità in più, francamente, sai, non è che il Milan sia fin qui un orologio talmente perfetto che dici vabbè, non serve, perché, cioè, a parte Menez, mi sembra che dal punto di vista offensivo Menez sicuramente è uno che può fare l'esterno d'attacco, quindi può giocare tranquillamente con Pazzini, quindi francamente Pazzini, Menez, Cerci o Pazzini, Menez, Sharawi è un tipo di modulo che può funzionare, quindi averlo visto, lui aveva fatto fino a ieri, quindi in campionato ha fatto soltanto 8 partite, sempre dalla panchina, un totale di 145 minuti, francamente pochi. E ieri ha giocato molto bene, ha fatto il gol, ha sperato il secondo gol. Sì, no, tanta rabbia, tanta rabbia, a me è piaciuto anche Cerci, tanta rabbia. Cerci mi è piaciuto, e anche il Sharawi che si è spento col passare dei minuti, non ha giocato male, quindi mentre a centrocampo il Milan anche ieri è stato di una povertà. Il Milan è povero in valore assoluto a centrocampo. C'è un campione del mondo e un allenatore in linea, Massimo Oddo, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come vedi, Massimo, i tormenti del adesso allenatore a primavera del Pescara? Ti stai costruendo come allenatore, Pippo ha già fatto il grande salto con diversi problemi, come vedi i tormenti del giovane Inzaghi? Ma io credo che l'esperienza giovanile sia fondamentale per un allenatore, credo che sia un passaggio troppo importante, perché impari a conoscere te stesso, impari a conoscere e le tipologie di gioco, di moduli, puoi sperimentare e sperimentarti, e quindi si ha un'esperienza inevitabile per un allenatore, un passo importantissimo. Lui questo lo ha fatto praticamente per 2 anni e non si finisce mai a imparare, ovvio che più ne fai di esperienza e meglio è, ma un tipo di esperienza è anche questa, se vogliamo, ovviamente ti confronti con una realtà completamente diversa, una squadra vera, dei giocatori veri, uomini veri, e quindi i tipi di problematiche che ci sono svariati e sono sicuramente molto più complessi. Stare in una squadra, in una grande squadra dove sono grandi giocatori, soprattutto di alto livello, non è facile, questo posso immaginare che non sia assolutamente facile. Poi in un ambiente come quello del Milan di oggi, dove c'è una fase di ricostruzione ed è ancora più difficile, perché ovviamente non è più il Milan di qualche anno fa, dove c'erano grandissimi campioni affermati. In questo momento ci sono tanti bravi giocatori, alcuni potenziali campioni che però non sono ancora tali, e quindi non sono più i tempi, Massimo, in cui il Milan voleva Massimo Oddo, lo Tito diceva dare soldi e vedere Cammello, e poi il Milan dava soldi, vedeva Cammello, prendeva Massimo Oddo, no, Pardo? Una trattativa davanti alla Cacio e Pepe, vedi, io di quella trattativa lì, di quella serata lì mi ricordo che lo Tito disse ma abbiamo Cacio e Pepe. No, invece volevo sapere però da te, che comunque insomma hai assorbito ovviamente l'humus culturale filosofico del Milan, mazza come parlo oggi, mi sento ho ingoiato la Treccani, e che effetto ti ha fatto vedere il Milan l'altra sera a Torino? Nel senso, adesso non bisogna mettere una croce addosso a Inzaghi, per carità, ci può stare una partita di sofferenza, alla fine era importante portare a casa un risultato positivo, però insomma vedere il Milan che chiude senza attaccanti, col 5-4-0, con la difesa a 5 e con così tante difficoltà, insomma, a me ha fatto un po' impressione, perché se c'è una società italiana dove dal punto di vista stilistico, dell'idea di gioco, ci sono dei paletti molto precisi, e questo è il Milan. Beh sì, era il Milan, nel senso che ovviamente, come abbiamo detto prima, i tempi sono cambiati, i giocatori che sono in campo non sono più quelli di una volta. Una volta il Milan, se capitava un'espulsione, rimaneva in 10, era come se giocasse in 11, continuava a spingere, ad attaccare, e probabilmente vinceva anche la partita, non solo con un gol di scarto, perché i giocatori in campo erano talmente superiori che potevano sopperire a un'assenza in campo. Adesso, se ci mettiamo anche il fatto che la situazione è un po' particolare, la paura di vincere o comunque di perdere una partita è grandissima, e si rischia anche in questo momento magari qualcosa di più grande, ci mettiamo che un allenatore magari in questo momento bada più magari a portare a casa un risultato positivo che non una sconfitta, e quindi poi si va incontro a questo tipo di cose che succedono in campo. Dico questo anche perché devo dire che invece all'inizio della stagione il Milan di Inzaghi aveva provato e in qualche partita c'era anche riuscito. Io ho sempre in mente Parma-Milan, il primo tempo di Parma-Milan, lo so, non è moltissimo, però ci sono state delle partite del Milan con dei segnali incoraggianti e positivi per il futuro. Torino l'altro giorno mi ha abbastanza scioccato, poi ieri devo dire che insomma alla fine in qualche modo è arrivata questa vittoria che il Milan ha anche meritato al netto anche lì di episodi arbitrali e polemiche. Sì, Però vedete, poi alla fine la condizione mentale io credo che sia fondamentale. Sì, sì. All'inizio Milan è partito con uno spirito nuovo, un allenatore nuovo che ha dato carica un po' tutto all'ambiente e si vedeva un Milan in campo con coraggio, scendeva in campo per voler vincere le partite. Poi al di là del fatto se le vincesse o no, però era un Milan che aveva voglia di vincere, si vedeva dal primo minuto. Adesso un Milan timoroso, un Milan che va in campo per non prendere più che altro. E conta l'aspetto mentale, perché io sono fermamente convinto che questo Milan è vero che non è il Milan di 5-6 anni fa, ma è anche vero che è un Milan che non ha assolutamente brutti giocatori e non ha assolutamente una squadra ha assolutamente una squadra che può competere, se togliamo le prime due che secondo me sono in questo momento un'altra cosa. Le altre. Possono, è una squadra che può tranquillamente giocare alla pari con le altre per guadagnarsi il terzo posto o il quarto, insomma, quindi non è una squadra inferiore, però purtroppo l'aspetto mentale, se noi andiamo a vedere magari la Sampdoria è una squadra che sul piano tecnico è sicuramente inferiore al Milan, ma è una squadra che va in campo e gioca con spensieratezza. Sì, è molto più leggera, Max, è molto più leggera. Sempre pericolosa, non ha paura di attaccare in ogni momento della partita, va a giocare con avviso aperto con chiunque, anche se va a giocare a Torino con la Juve, quindi quell'aspetto mentale è fondamentale. Senti Max, tu hai parlato dell'importanza per un allenatore, cosa che stai facendo anche tu, dell'apprendistato del settore giovanile. Dall'altra parte del naviglio invece è stridente come non mai il contrasto con Roberto Mancini, ai tempi della Sampdoria ha detto Ubacanetu, il padroncino, che ha seguito invece una trafila diversa. Lui ha cominciato subito con le prime squadre, seguendo Eriksson e poi prendendo le sue panchine. Adesso è un allenatore consumato e sta convincendo l'Inter di essere quasi una squadra forte. No, ma anche quella è una grandissima esperienza. Sono due percorsi diversi. La differenza probabilmente è che in uno, quello del settore giovanile, tu fai esperienze dirette, dove tu sì. metti in campo le tue idee e le sperimenti, per vedere evidentemente poi se le tue idee sono praticabili o non sono praticabili. E dall'altra parte c'è un'esperienza indiretta dove tu hai un allenatore che ha già esperienza e ti trasmette qualcosa. Se hai la fortuna di stare con un allenatore che ti trasmette qualcosa di importante, ma comunque vedi indirettamente da altri il lavoro sul campo, quindi è un aspetto diverso. E probabilmente tu in quei momenti, in quelle circostanze, hai delle idee, anche se vogliamo diverse dal tuo primo allenatore, ma non le puoi mettere in pratica, le metti in pratica poi. Sì, quando tu vai hai una squadra in mano, è chiaro. Quindi è un'esperienza diversa, ma comunque è un'esperienza. Senti Pier, la fai tu per chiudere a massimo modo la domanda su Lazio? Sì, sì, gliela faccio volentieri. Ma insomma, a me sembra che sia veramente, lo immaginavo, lo sospettavo, l'avevo anche detto già all'inizio della stagione, che sia una grande squadra, potenzialmente una grande squadra. Poi si perde alcune volte con delle rimonte subite, penso a San Siro, penso anche all'altro giorno, ma insomma. Dove può arrivare? Ma può arrivare lontano, secondo me. Secondo me l'aspetto più importante della Lazio è che in questo momento ha dei giocatori che in prospettiva futura possono solo che migliorare, a differenza di altre squadre che sono quelle. Cioè, quella squadra vediamo e quella sarà per 1, 2, 3 anni. Mentre la Lazio secondo me ha dei margini di miglioramento incredibili, ovvio che poi se ci andiamo a mettere 1 o 2 innesti per anno di valore migliora ancora di più, però io parlo di giocatori che in questo momento ha la Lazio. Se togliamo il vecchietto Mauri, che però è un giocatore straordinario, ha dei giocatori da partire dalla difesa al centrocampo all'attacco che sono destinati a crescere sempre di più se seguono questo tipo di percorso, e quindi credo che sia la squadra che in questo momento ha più margini di miglioramento, e con giocatori veramente importanti che quest'anno si stanno confermando, vedi Felipe Anderson. Quanto vale secondo te? è una così è un'esplosione, è stata un'esplosione istantanea, no? Quella di Felipe Anderson, improvvisa più che istantanea. Capire quanto vale però è difficile. No, è difficile prima di tutto perché non lo conosciamo nessuno, noi da fuori, ovviamente i compagni di squadra o chi l'ha preso, il direttore sportivo, lo conoscerà sicuramente meglio di noi perché prima di prenderlo l'ha seguito o comunque ci si allena tutti i giorni per quanto riguarda i compagni. Noi lo guardiamo e lo valutiamo per quello che vediamo la domenica. L'altra volta ho sentito un'intervista di Stefano, di Mauri, che ha detto una cosa secondo me giusta. E che io condivido, un po' tutti i giocatori stranieri che arrivano in Italia inizialmente hanno difficoltà, e certo se viene Van Basten è Van Basten, è un fenomeno, e difficoltà ne ha poche, anche se anche lui ne ha. I giocatori giovani come può essere Felipe Anderson, tutti i giocatori che vengono a campionati esteri trovano un campionato che ha delle caratteristiche completamente diverse. Io ho avuto la fortuna di giocarne uno diverso, che è quello tedesco, e ha delle caratteristiche completamente diverse, come immagino ne abbia quello spagnolo, quello inglese, quello brasiliano, quello sudamericano, quelli sudamericani in senso generale. Ed è ovvio che questi ragazzi che sono giovani hanno un impatto che è veramente importante con questo campionato, dove io credo che ci siano gli allenatori più bravi al mondo, e con questo voglio dire che anche laddove non ci sono in questo momento giocatori come ce n'erano una volta in Serie A, ma le organizzazioni di gioco, tattiche che ci sono in Italia non ci sono da nessuna parte. Certo. E quindi anche i giocatori di grande talento inizialmente fanno fatica. E laddove magari un giocatore come Felipe Anderson trovava una discreta libertà nel suo campionato brasiliano perché non c'erano queste marcature asfissianti o organizzazione tecnica, quindi un campionato dove magari puoi trovare tanti spazi liberi e lui va a nozze, e quindi in Italia non le trova. E allora deve cambiare tipo di gioco e deve capire che deve cambiare per forza di cose tipo di gioco per mettere in mossa quelle sono le sue qualità. Probabilmente lui lo sta capendo in questo momento, e questo l'ha confermato Mauri, e sta cercando di mettere in evidenza le sue caratteristiche in altri modi. Certo, grazie Massimo. Ciao Max, ciao a tutti. Pier, ci fermiamo per la borsa, Sì, vai. Chiacchieriamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qui. Pardo, sei un grande, però sei un po' paraculo, te lo dico io. Convocati. Dunque, Pierluigi Pardo, andiamo con gli ascoltatori, cosa dici? Sì, dico che è un'ottima idea. Ottima idea, Paolo da Milano. Signor Paolo, sì. Buongiorno. Signor Paolo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Dica. Grazie. Due considerazioni veloci sull'Inter. La prima, vabbè, riguarda Guarin, e sono contentissimo che abbia ripreso in pieno, voglio dire, a giocare bene, e poi il suo ruolo è un giocatore importante, per me lo è sempre stato, e non capivo le critiche di certa parte della critica e della tifoseria. Vabbè, non ha fatto delle belle partite in passato, però è un campione e sono contento. E la seconda riguarda il centrocampo. Avevo chiamato circa un mesetto fa e avevo parlato con voi, e avevate un po', quando era appena arrivato Mancini, e mi avevate un po' detto, no, io avevo auspicato un centrocampo di qualità, e voi avevo detto Hernanes, Kovacic, Guarin e al limite Vedel a coprire. Voi avevate un po' detto, ma è un po' troppo sbilanciato. Invece poi alla fine i giocatori sono gli interpreti, che anche Eto'o indirizzato, aveva fatto anche lui il terzino, voglio dire, se hanno la mentalità, credo che anche i grandi anche giocatori offensivi, se tutti partecipano alla manovra, poi alla fine si può anche se ognuno è disposto a fare. Ma d'altra parte consideravamo una follia quel centrocampo del Milan piglia tutto di Ancelotti, quel centrocampo che Ancelotti si inventò, però è chiaro, dipende dalla predisposizione dei giocatori, quello famoso con Pirlo arretrato davanti alla difesa, idea di diversi anni fa. Su Guarin, Pierluigi ce n'ha messo un po' a entrare dentro questa squadra, è stato subito battezzato da Mancini, che l'ha messo un po' di qua, un po' di là. È un giocatore piuttosto anarchico, senza un ruolo preciso. Domenica ha giocato con Medel davanti alla difesa molto bene. Guarda, su Guarini io penso che lui sia assolutamente un giocatore con dei colpi eccezionali, anzi eccezionali, come direbbe Sandro Piccinini. Non è un giocatore di grandissima costanza di rendimento, non è secondo me un giocatore sul quale puoi fondare una squadra, impermeare un centrocampo, un giocatore con dei colpi, importanti, con degli strappi importanti, con delle accelerazioni di grande livello, quindi da questo punto di vista ha delle intermittenze, mi sembra che facciano parte del suo modo di giocare, poi chiaramente in certi momenti le intermittenze sono state lunghe e i fischi sono stati più degli applausi, adesso si ricomincia a vedere qualcosa di interessante, però il giocatore piace molto agli allenatori, insomma, non dimentichiamoci che poteva essere oggetto di uno scambio con Vucinic, che piaceva a Conte, insomma mi sembra onestamente che siamo di fronte a un talento, non è un giocatore affidabilissimo e secondo me anche se adesso sta migliorando è difficile che possa avere una continuità nelle 38 partite, però insomma sono segnali, sono segnali sicuramente di crescita. No existe esa división. Todos animan al Messi, todos animan al Barça y yo les pido encarecidamente, como he hecho desde siempre, bueno, cuando era jugador sí que me gustaba que me animaran. Ahora que soy entrenador, que los protagonistas son los jugadores y que cuanto más apoyo le podamos dar a todos los jugadores, mejor para el entrenador, mejor para el equipo y mejor para el club. No exigí nada para quedarme porque no tenía ninguna intención de irme a ningún lado tampoco. Escuché versiones de eso también, de que mi papá había hablado con el Chelsea, con el City. Toda mentira. Non credo che la storia sia finita con questo 3-1 Atletico Madrid, gol di Neymar, Messi e Suarez, cioè delle tre stelle, con un sacco di polemiche arbitrali anche lì, peraltro. Sì, no, non ci facciamo mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla neanche in Spagna. Paolo Condò, buongiorno. Buongiorno. Quel Condò lì, Che ieri abbiamo buongiorno. Citato più volte in contumacia, era di ritorno da casa di Blatter. Bene. Sì, come sempre, Paolino, come sempre. Grazie. Allora, diamo a Luca da Torino la possibilità di una risposta alla sua domanda di Pardo e di Condò. Luca, cosa voleva dire? Ma io volevo fare due considerazioni. Sì, la le faccia. La prima considerazione era sullo schema di gioco della Juventus. Io sono un tifoso Juventus, non ero un gran fan, forse uno dei pochi, un gran fan del gioco di Conte, perché lo ritenevo solo un gioco cattivo e poco piacevole da vedere, non era granché bello secondo me, molta cattiveria e poco gioco. Non mi è dispiaciuto, anche se non apprezzavo prima Allegri, non mi è dispiaciuto come si è introdotto nella Juventus Allegri. Adesso però non capisco perché faccia giocare Vidal come trequartista, perché Vidal secondo me è tutto tranne che un trequartista. Infatti anche con Napoli, che l'ho rivisto secondo me a buoni livelli, come trequartista ha fatto pena secondo me, invece nell'azione dell'ultimo gol per esempio come incursore è stato molto più efficace, quindi secondo me Vidal è un ottimo giocatore ma non come trequartista. Magari sono ragioni di equilibrio, ma lascio la risposta a Paolo Condò e Luigi Pardo. Paolo? Beh, ma sai, al Milan faceva giocare Boateng, che è più scarso di Vidal, ma comunque più o meno lo stesso tipo di giocatore. È chiaro che lui evidentemente ha questa immagine di un muscolare dietro ai due attaccanti. Io personalmente sarei, lui mi aveva detto che l'avrebbe fatto, ma sin qui non si è visto granché. Io proverei Tevez in quella posizione, con due punte davanti, perché oggettivamente anche degli altri centrocampisti che lui ha a disposizione, né Marchisio né Pogba, forse un po' più Pogba, ovviamente Pirlo che ormai da anni ha fatto un altro tipo di scelta, possono giocare dietro tutte. Io proverei Tevez con Morata e Llorente davanti, a quel punto però mi ritrovo nuovamente a dover far fuori uno dei grandi centrocampisti che ho, che sarebbe un peccato. Sarebbe Pirlo più che altro. Sarebbe Pirlo. Il punto è questo secondo me, cioè se la Juve vuole crescere e vuole, diciamo, mettere in quella posizione di campo un trequartista puro, al di là del fatto che poi i trequartisti puri non è che siano tantissimi di enorme qualità, è chiaramente un progetto intrigante che secondo me racconta anche della mentalità di Allegri e della voglia di evolversi rispetto alla Juve vincente ma con caratteristiche diverse di Conte. Se lì fai una scelta di quel tipo, però chiaramente Pirlo rischia per, non è che rischia sempre, però in quel tipo di situazioni chiaramente per supportare un tridente veramente pesante hai bisogno di un centrocampo muscolare, di un centrocampo dinamico soprattutto. Pirlo, l'abbiamo detto tante volte, lui ha delle doti di interdizione che spesso vengono un po' sottovalutate, cioè lui è anche un grande recuperatore di palloni, però è chiaro che in quel centrocampo lì, rispetto agli altri fenomeni fisici, pensa a Pogba, pensa a Vidal, ma anche lo stesso Marchisio, insomma, l'indiziato per stare a casa qualche partita in più diventa inevitabilmente, certo, lui. Certo. Però insomma ci sono le tre competizioni, ci sta anche. A me sembra che questa ricerca del trequartista sia un segnale di mentalità, sia un segnale complessivamente positivo per la Juve. Ieri ho citato, dicevo in contumacia diverse volte, Paolo Condò, perché per la sua motivazione ineccepibile, giurato il pallone d'oro alla sua sentenza su Cristiano Ronaldo che ha votato. Si sveglia ogni mattina, si sveglia e il leone sa che deve andare a prendere la gazzella, no? Il leone sa che deve migliorare ogni giorno di più e Cristiano Ronaldo lo fa. Guarda, io ho un metodo che vi suggerisco, che è assolutamente infallibile per dividere da chi fa finta, o meglio, chi è un grande giocatore, sì, e chi magari lo è diventato ma smetterà di esserlo molto presto. Quando sento un giocatore dire non ho più nulla da dimostrare, un giocatore come anche un giornalista, vale per tutti i mestieri, so automaticamente che quello o non è granché, oppure se lo è diventato perderà presto la sua posizione, perché è un mondo talmente competitivo che o hai la testa che ogni giorno devi riconquistare tutto quello che hai conquistato fino al giorno prima, o altrimenti perdi tutto. Non ho mai conosciuto un giocatore di classe, di talento come Cristiano Ronaldo, che abbia in testa inculcata questa esigenza, proprio perché è un'esigenza, di migliorare ogni giorno, di confermarsi ogni giorno. E questo secondo me è quello che lo fa grande. Oltretutto ricordiamoci di quello che abbiamo detto, io per primo, per diversi anni, e cioè pensa che sfiga essere Cristiano Ronaldo, ma essere nato nella stessa generazione di Messi, tutti, certo, parleranno di Messi. Lui non si è accontentato di essere Salieri, ma è stato all'attacco di Mozart, sì, e negli ultimi due anni l'ha battuto, sì, grandissimo. Sì, che poi c'è tutta la differenza del mondo tra il soggetto dell'intervista di oggi di Roberto Mancini, quello che gli entra da un orecchio gli esce dall'altro. Pensavo che dopo aver lasciato il City riuscisse a fare bene al Milan, invece no, rischia di fare la fine di Adriano. Indovinate chi è il soggetto. Paolo Condò, Pierluigi Pardo, state lì un attimo, traffico. Dentro Ibrahimovic, ecco il cross per Ibra, con il petto l'ha presa Ruffier, ma come ha fatto? Una parata incredibile, anzi no, è gol, la palla è dentro, ci ha messo un po' l'arbitro a segnalare la rete del vantaggio, l'ha segnata proprio lui, Zlatan Ibrahimovic, con il petto. Tutti convocati. Dunque, Paolo Condò, abbiamo sentito questo stralcio della telecronaca di Barcellona, Atletico Madrid. Tu sei andato laggiù per respirare l'aria intorno al Barça, com'è? Ma l'aria è cattiva, l'aria è molto cattiva, la peggiore da quando frequento il Barcellona, che c'era ancora Rijkaard all'epoca. E l'aria è cattiva perché la fusione tra Luis Enrique e il gruppo, e soprattutto Messi, ma anche altri giocatori del gruppo, non è riuscita bene. Non esiste più una società in grado di ammorbidire, di smussare e di sistemare le cose, perché dopo insomma l'esperienza Rosell molto rapida, ma poi quello che è venuto dopo comunque non va bene, e difatti adesso a giugno ci saranno nuove elezioni, e se la Porta si ricandida vince a mani basse. Insomma, tutte queste cose qui fanno sì che in realtà siano tutti un po' prigionieri degli altri, perché chiaramente non è che tu puoi metterti a perdere le partite apposta per far andare via Luis Enrique. È un campionato troppo tirato, nel quale ogni punto singolo è importantissimo per permetterti comportamenti aberranti, questo, ma che insomma li abbiamo visti altre volte. E quindi penso che fino a fine stagione proseguiranno in questa maniera, ma poi insomma voi tutti conoscete bene, noi conosciamo bene Luis Enrique. E nella conferenza stampa post Atletico alla quale ho partecipato, e insomma gli hanno chiesto, ed era chiaramente una domanda buttata lì per provare a rimettere un po' a posto le cose, no? Dopo questa bella vittoria, dopo una prestazione lunare di Messi, E gli ho chiesto, ma Luis, ma chi è il vero leader di questa squadra? E Luis Enrique, che è di cotto da questo punto di vista, ha un'ammirevole coerenza, però insomma non capisce bene il mondo nel quale vive, anziché dire che è chiaro che Messi è il nostro miglior giocatore, ha detto il nostro leader, lo scudo, la camisetta, la fission, e così, e allora cioè, spara, che ti devo dire. Non capisce bene il mondo nel quale vive, non è male, no. Pardo. Non capisce bene il mondo nel quale vive. Molto, guarda che io ho moltissimo rispetto per la coerenza di Luis Enrique. Sì. Però si deve rendere conto lui per primo che non tutti i giocatori sono uguali e che qualche concessione, qualcuno è diverso, qualche concessione non sarebbe un peccato mortale, ma sarebbe quello che si dice un comportamento intelligente. Piera, scuola da Carletto. Troppo triathlon, meno triathlon, bravo Stellini. No, ma nel senso, guarda, io ti dico, Luis Enrique, io ho simpatia umana per Luis Enrique e devo dire che alcune delle caratteristiche anche di comunicazione di Luis Enrique della sua esperienza italiana sono da chapeau, nel senso che lui ha perso una volta un derby con qualche episodio arbitrale, cioè era veramente un arbitro, un allenatore molto sereno, molto positivo come tipo d'approccio, insomma a me piace quando uno ha un'idea forte, però poi esiste anche la realtà. E con la realtà bisogna fare i conti, e come diceva giustamente Paolo, non tutti i giocatori sono uguali, e a Roma alla fine era molto amato dai giocatori, però poi ha finito per fallire per eccesso di coerenza. Insomma, la coerenza è una bellissima dote, ma non c'è solo la coerenza, se sei sempre soltanto coerente alla fine sei uno sciocco, e questo non sarà il caso suo, però mi sembra che se fa due chiacchiere con Ancelotti, il problema è che sono in questo momento uno contro l'altro, quindi non penso che Carlo gli possa spiegare il segreto, e poi credo che sia un fatto anche proprio umano di rapporti. Se c'è una cosa eccezionale oltre alle qualità tecniche di Ancelotti è proprio questa sua capacità di capire le situazioni, di questo senso della psicologia spicciola dei giocatori, la capacità di caricarli, di portarli dalla sua parte senza essere aggressivo o autoritario, insomma questo secondo me è bellissimo, e Luis Enrique su questo ha ancora molto da imparare. Sì, intanto ieri sera episodio che ti piacerà molto, Pierluigi Pardo, da un'altra parte, su un altro campo a Saint-Étienne, Ibrahimovic, uno dei preferiti di Paolo Condò, ha segnato di petto in Coppa di Francia, classico gol non gol, polemiche d'inferno, tafferugli, gara sospesa addirittura e poi ripresa, e Paris Saint-Germain che comunque quarto in classifica, in crisi, Lavezzi e Cavani fuori rosa. Posso aggiungere questo ulteriore elemento, questo avviene in un paese, siamo tutti scioccati ovviamente da quello che è successo la settimana scorsa, ma se c'è un paese che è scioccato e che vive e che ha avuto i morti, le vittime, la Francia, questo ci racconta come poi la vita vada avanti, perché tante volte si viene fatto questo discorso, come si può pensare al calcio, come si può andare al bar di fronte a certe tragedie della vita e magari incazzarsi per un fuorigioco, per un arbitraggio o per un attaccante che non segna, è questo poi chiaramente quello che è successo ieri è da condannare come tutte le volte nelle quali c'è di mezzo la violenza, ma questo spiega poi alla fine la normalità e la forza del calcio, che anche di fronte a problemi infinitamente più grandi porta a far sì che ci si possa scannare per il gol non gol di Ibrahimovic di petto di ieri sera in un paese colpito così duramente da una tragedia come quella della settimana scorsa. In un paese nel quale Lilian Thuram ha parlato così. La Francia non dimentica che bisogna lottare per la libertà, per l'eguaglianza e anche con la solidarietà. E io credo che abbiamo dimenticato da tanti anni di parlare di questa fraternità. E allora spero che sarà il caso. E io credo che questo è il modo più importante per lottare contro l'estremismo. I politici, lo periodico, i giornalisti avranno l'intelligenza di parlare di una maniera molto intelligente di questa situazione e di non mandare persona al confronto, perché da tanti anni in Francia c'è veramente una propaganda contro la religione musulmana. Io credo che ormai bisogna smettere su questo. Paolo Condò, Lilian Thuram qualcosa da dire ce l'ha sempre. Lilian Thuram ce ne siamo accorti molto presto anche in Italia, che si trattava di un calciatore con tre marce in più, di un intellettuale. Un intellettuale a volte viene usata e io non capisco perché con accezione negativa questa parola. Invece l'intellettuale secondo me ha sempre una marcia in più, e Thuram, insomma, venendo dal mondo del calcio dove gli intellettuali non sono poi tantissimi, lo è a maggior ragione. Il concetto di solidarietà è giustissimo, e anche lo faccio anche un po', come dire, anche in maniera furba ti dico che nessuno fa la rivoluzione se ha la pancia piena. Certo. Quindi è evidente, certo. Io da questo punto di vista sono di scuola marxista, è la scuola marxista che ti dice che l'economia è sempre alla base di tutto, qualsiasi cosa accada la ragione è sempre economica, e io da questo punto di vista la considero una teoria giusta. Anch'io, anche nella vita di tutti i giorni. Grazie Paolo. Sì. Ciao a tutti. Ciao Paolino. Pier, parliamo con Claudio da Milano e poi ti saluto. Vai. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un abbonato Milan, non sono un grosso intenditore di calcio, mi piace andare a vedere il Milan, abbonato da anni. Trovo che ci sia una contraddizione nella squadra che secondo me è fondamentale, poi magari mi spiegherete perché non è così. Il Milan è una squadra che in questo momento rende meglio il suo gioco quando gioca in contropiede, quando ha la velocità di El Shaarawy, eccetera. In compenso, quando viene attaccata è una squadra che si scioglie, è una squadra che prende un sacco di gol. Dunque, non riusciremo mai noi a vincere giocando in contropiede, cioè aspettando gli avversari. In compenso, quando gli avversari attaccano ci fanno Non ha sbagliato, Pier. Sono d'accordo a metà, sì, nel senso che no, sono d'accordo sulla prima parte, cioè una squadra che sicuramente dà il meglio di sé quando riparte. Però non è vero secondo me che viene travolta quando viene attaccata. Una squadra secondo me che è in grande difficoltà, e lo dicono in qualche modo anche i numeri di questa stagione, quando deve imporre il suo gioco. Lo si è visto anche ieri, ma sinceramente la spiegazione è molto semplice. Il Milan ha un centrocampo medio? Mediocre? Guarda, ieri sera era chiarissima la diagnosi. Ieri sera si è visto che Cerci sta bene, ovviamente è la prima partita da titolare, bisognerà ricontrollare. Pazzini è tornato ad essere un giocatore, Menezia è rimasto in panchina ed è il migliore del Milan fino a questo momento. Bonaventura, che ieri ha giocato a centrocampo, quando gioca nel tridente ha dimostrato per ora di essere più utile. Il problema è che il centrocampo del Milan è un centrocampo che propone pochissimo, con Muntari, con De Jong, cioè si fa giustamente una sottolineatura positiva su De Jong, ma De Jong, ragazzi, è un mediano, ma non lo dico in senso dispregiativo, è un giocatore di vigoria e di agonismo in mezzo al campo. Cioè la Juve in quel ruolo ha Vidal, Pogba, Pirlo e Marchisio. Pjanic, Nainggolan, De Rossi, sta tornando Strootman, c'è una differenza. Quindi questo secondo me spiega tutto. Infatti il Milan perde poche partite, le perde più in casa quando deve imporre il gioco, ha perso in casa contro il Palermo e ha perso in casa contro il Sassuolo, partite nelle quali doveva imporre il gioco, non ci riusciva e beccava il gol in contropiede, e tutto sommato invece contro le grandi squadre tiene nelle grandi partite, ha battuto il Napoli, ha pareggiato l'Olimpico contro la Roma, ha pareggiato il derby che comunque per tanti motivi era una difficile grande partita, ha perso con la Juve a inizio stagione ma senza demeritare, quindi la diagnosi è abbastanza semplice. A me sembra che il Milan debba trovare soprattutto qualità in mezzo al campo. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Noi abbiamo GR e poi torniamo 800 24 00 24, lo aspettiamo qui. Il tempo che finisce qua. Tutti convocati. E si ricomincia dagli ascoltatori, che ringrazio per l'attesa. Loris da Parma, Filippo da Napoli, cui si è aggiunto Paolo da Bergamo. Buongiorno Loris. Sì, buongiorno, senta. Mi dica. Io volevo fare una domanda a Pardo, ma mi sa che non c'è più. Ma c'è domani. Perché come conduttore di una trasmissione televisiva, questo riguarda la polemica naturalmente che c'è stata nella partita di Juventus, di Napoli-Juventus. Sì. Nessun giornalista, io ho seguito, naturalmente mi piace il calcio e seguo questo sport, e poi seguo anche tutte le polemiche che nascono nelle varie trasmissioni, da Sky a tutti gli altri, non c'è un giornalista che conduce una trasmissione che o con l'allenatore o con i giocatori di una squadra o dell'altra, non c'è mai qualcuno che in queste polemiche arbitrali dica, chieda una volta, ma come mai la Juventus nei momenti delicati li ha sempre tutti a favore? Non è una polemica contro gli arbitri, a cui credo, non credo ci sia qualche cosa in giro che si pensi che debbano aiutare una squadra o l'altra. No, nei momenti delicati non vedono delle cose che vedono tutti. Mi ricordo ancora il gol del Milan, era dentro più di mezzo metro, no? Quello ed era montare. Un momento delicato perché cioè, Milan lei vorrebbe ma questa domanda viene fatta, lei vorrebbe che qualcuno, che qualche giornalista chiedesse a un protagonista della Juventus, a uno dei suoi, ad esempio l'altra sera in Tiki Taka c'era Mughini che si arrabbiava, sì, ce la prendono, dire ma scusa Mughini, ascoltami, ma come mai secondo te, no, che anche tu sei un uomo di mondo, ma perché succedono sempre queste cose? Credo che questa domanda a Mughini sia stata fatta grosso modo mezzo milione di volte, io credo, nella storia recente, quindi è un tema tra i più ricorrenti. Poi cosa vuole che risponda? Nei momenti delicati, io mi ricordo Conte che aveva fatto tutta una polemica, mi ricordo in una partita, io vado a vedere il Parma, e quindi c'era stato qualche cosina a favore del Parma in quell'anno lì che poi vinse il primo campionato, la storia dei gol, fece tutta una polemica anche lui perché noi stiamo sempre zitti, naturalmente poi nel momento giusto quando vai a 7 punti o invece ne recuperi 3 naturalmente sul Milan, al momento giusto cade e poi non si sente più nessuno, non parla più né Conte né Buffon, non parla più nessuno, sono tutti bravi dopo, gli arbitri si sbagliano come sbagliano i giocatori, ecco. Questa è una cosa che non... Cioè, lei nota, lei vuole... Sì, signora, capisco, lei va a sottolineare come i treni vanno e vengono, ma nel momento in cui serve il treno arriva puntuale quello della Juve, questo è quello che intendevi. Arriva lì, non c'è nessun'altra squadra che ha delle puntualità del genere, perché i momenti di difficoltà le hanno tutte le squadre, e quello è un aiuto molto importante, perché se questa partita contro il Napoli la perdi o la pareggi, sì, ma posso farle una domanda? Ma posso farle una domanda però? Secondo lei la Juventus ha meritato di vincere a Napoli o no? La Juventus ha giocato una partita gagliarda, però il pareggio ci stava benissimo, voglio dire, non è che il Napoli rubava niente se pareggiava la partita. Secondo me la Juventus, su questo non sono d'accordo, secondo me la Juventus ha meritato di vincere quella partita, poi è chiaro che si dice, vabbè, ma l'episodio è figlio, il risultato è figlio di quell'episodio, eccetera, eccetera, però secondo me sul campo, nel quadro, la Juventus ha meritato di vincere quella partita, che il Napoli non ha giocato bene, che ha giocato peggio della Juventus soprattutto nei suoi interpreti più illustri, mentre in questa partita sono usciti i mamma santissima dello spogliatoio della Juventus, cioè i grandi giocatori carismatici della Juventus, quindi secondo me la Juve ha meritato di vincere questa gara, il Napoli ha avuto le occasioni per vincerla, la Juventus ha segnato, il Napoli no. Poi ci può stare, poi se vogliamo dire che al momento giusto arriva il treno possiamo tranquillamente farlo. Filippo Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Mi ha preceduto l'ascoltatore di prima perché volevo parlare proprio di questa partita. Grazie. Dica la trasmissione lunedì, ha detto io non vorrei parlare il lunedì di geometria. No, infatti sì, non vorrei, però lo faccio. Sì, ma purtroppo di geometria, quando ci sta la Juve in mezzo, si deve per forza parlare. Io ho visto ultimamente... Sì, al giro prima abbiamo parlato di geometria per la Roma, però, a Udine, Sì, per la cronaca. Però abbiamo fatto lezioni di geometria sulla Roma, non sulla Juve. Sì. Però no, lei ha detto lunedì, lunedì non vorrei parlare di geometria, si riferiva ai 12 centimetri, non lo so, 20 centimetri di fuorigioco della Juve. Sì. Io ultimamente ho visto dei guardalini che hanno beccato dei fuorigiochi millimetrici, solo alla Juve non si vede Torino, Torino Juve, Torino Juve Napoli, un altro fuorigioco contro il Napoli, non visto, ma sì, 12 centimetri, 10 centimetri, ma perché non abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno, non lo so. Beh, quello dell'anno scorso, però mi perdoni Filippo, anche l'anno scorso Caleon no, con la Juventus, no, non era fuorigioco forse, eh? Filippo? Ma, sì. L'anno scorso, ma... l'anno scorso, quando Napoli batté la Juventus... Caleon ci sono stati anche a favore del Napoli, ma a favore del Napoli si vede ogni morta di papa, diciamo noi qua a Napoli. No, ma era giusto per la cronaca. Sistematicamente tutte le domeniche. Poi lei voleva dare questa partita alla Juve, la vuole dare ai punti, non lo so. No, io dico che la Juve, no, Filippo, io dico semplicemente che la Juventus ha meritato di vincerla, cioè quale partita seguito si è fatta? Abbiamo visto due partite diverse, io non lo so, io ho visto una partita che se finiva 2-2, 3-3, 0-0 è normale. Normale neanche tanto, io ho visto una partita che non è stata bella, in cui la Juventus ha avuto delle occasioni, le ha sfruttate, De Guzman e l'altro giocatore del Napoli, non mi sfugge il nome, adesso invece non le hanno concretizzate, la Juventus ha vinto questa partita con un episodio favorevole, ma secondo me in maniera abbastanza meritata, questo è quello che intendo dire. Filippo, grazie comunque, non se la prendo tanto. Paolo Bergamo, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Prima cosa volevo avvisarti che io sono potenzialmente pericoloso. Potenzialmente pericoloso. Ha detto il prefetto di Bergamo che sono potenzialmente pericoloso, quindi non posso andare allo stadio. Ah, perché? Perché quei tifosi di Atalanta contro Roma hanno fatto il casino. Di conseguenza chi non ha la testa del tifoso non può andare allo stadio fino a data da definirsi. Sì. Volevo ringraziare anche quelli che controllano le trasferte dei tifosi per aver vietato la trasferta a Bergamo ai pericolosissimi tifosi del Chievo Verona, a tutti i 16. Però hanno fatto venire due settimane prima un migliaio di romani, sì. E poi è venuto fuori quello che è venuto. Sì. Mi domando come faccio a far giocare il derby di Roma aperto a tutti. E sì. Poi volevo... aperto a tutti, poi chiudono le curve. Sì, per carità, però prima li fanno giocare, prima. Poi chiudono le curve dopo. E poi volevo chiedere, perché non so neanche a chi fare queste domande sinceramente, ma ci sarà qualcuno che è responsabile di quello che succede? Voglio dire, adesso è andato... le curve della Roma hanno chiuso la curva della Roma per due turni, quella sì, da Lazio, sì. Ecco, ma se si fa il paragone rispetto a quello che hanno fatto a Bergamo per il tafferuglio dello stadio, sono pene completamente diverse per potenzialità, diciamo. Non saprei giudicarle, Paolo. Allora, non saprei giudicarle. Cioè, secondo me, se succede qualcosa fuori dallo stadio, come è successo a Roma, come è successo a Bergamo, è giusto che ci sia un qualche tipo di sanzione. Se poi lei mi dice che, cioè, io sono da sempre contrario alla tessera del tifoso, a tutto quello che ne consegue, secondo me non è questo il sistema, non è questo il modo per gestire l'ordine pubblico, altro non saprei cosa aggiungere sinceramente. Io sono, ma da sempre quando è inutile che apriamo un faldone, sono a favore del tifo disorganizzato. Non mi piace il fenomeno dell'organizzazione del tifo, dei treni speciali, dei convogli speciali scortati dalla polizia, non mi piace tutto questo. In un mondo normale, un tifoso che vuole andare a vedere la propria squadra di qui o di là prende la sua macchina, va, compra il biglietto al botteghino, entra senza tessere tifoso o cose di questo tipo. Rubens Mantova, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è potenzialmente pericoloso, anche lei? No, assolutamente. Sono tranquillissimo. Dica. No, volevo intervenire a proposito dei due interventi che ci sono stati in precedenza. Mi spiace parlare ancora della partita di Napoli-Juventus. Siccome c'è stato un ascoltatore che ha detto che puntualmente la Juventus ha gli aiutini nel momento in cui servono, secondo me la risposta più semplice è una domanda a lui. Se nelle partite precedenti a questa, contro l'Inter e contro la Sampdoria, non ci fossero state delle sviste contro la Juventus, di cui avete parlato benissimo anche voi, la Juventus non avrebbe avuto bisogno di aiutini. Forse non sarebbe stato un momento così delicato come diceva l'ascoltatore. Quindi secondo me alla fine non è che ci sia una risposta vera e propria. Sì. È che quando succede con la Juventus, per forza la Juventus deve essere aiutata. D'altronde, quando una squadra è forte e vince, era sempre così, perché era così quando vinceva il Napoli, era così quando vinceva il Milan. È da sempre così, quando una squadra è forte, sì, comincia io a dare comunque partito, la penso, quindi... la penso comunque in linea di massima come il mio amico Pardo, non vedo alcun disegno oscuro dietro questo campionato, non ho comprato il quadernetto per scrivere le sviste arbitrali a favore, contro, puntualmente a favore dell'una o dell'altra o contro l'una o l'altra. Io semplicemente sono in totale crisi d'astinenza dal mio amico Leo Turrini. Ciao Leo. Come andiamo, maestro? Buona giornata. Buona giornata a lei. C'è il traffico? C'è traffico. C'è il traffico, Leo. No, no. Non c'è il traffico. Traffico. Allora, volevo dire che sulla Pero Corbano, sì, continuano le code, sì, ma è ripartita la multipla metano dell'avvocato Montezemolo. Che dove va? Il quale, grazie ai primi benefici effetti, come direbbe Barisoni a Focus Economia, del Jobs Act, avrete appreso che probabilmente, per segnalare le istanze di rinnovamento di questo paese, quasi 30 anni dopo Italia 90 sarà il presidente del Comitato Olimpico Roma 2024. Sì. Quindi c'è una speranza per tutti in questo paese, ecco. Avete cominciato l'anno bene, sì, bene. Beh, ti dirò, abbiamo cominciato con le lezioni di geometria e un sacco di polemiche arbitrali che non finiscono mai. Su questo bisogna fare la precisazione. Perché però, poi il treno per la Juventus, dicono, arriva sempre puntuale quando serve. Ho sentito prima anche gli interventi dei tuoi amici ascoltatori, bisogna fare una precisazione, è stato smentito che sempre per effetto del Jobs Act il guardaline di Napoli-Juventus sia uno dei neoassunti alla Melfi-Fiat. Non è vero, eh? Questo precisiamolo, non risulta né lui né parenti essere tra i 1000 assunti di Marchionne. Ci tenevo a farvelo sapere. Ecco. Intanto Luca ha fatto un grande lavoro alla guida per 23 anni, è stato campione nel 2008, ma abbiamo avuto una disastrosa stagione lo scorso anno in Formula 1 ed era tempo di cambiare, ha detto l'uomo con il maglione blu. Poi la multipla è ripartita lo stesso. Questo concetto Marchionne lo espone, lo esprime sistematicamente da mesi, da quando, tu ricorderai, a ridosso del Gran Premio d'Italia lo scorso settembre fece sapere che aveva deciso di autoassegnarsi la presidenza della Ferrari. Perché dico questo? Perché l'uomo con il maglione non poteva dire che l'azienda Ferrari come bilanci andava male, avendo fatto un utile netto pagate le tasse di oltre 200 milioni di euro. Doveva dire la Formula 1 va malissimo, cosa peraltro reale, e quindi diciamo che Montezemolo è stato sollevato dall'incarico un po' come Mazzarri a Link, hai capito? Ecco. Allora vedremo se tra Marchionne per e Mazzini... Per gli amanti della letteratura francese come Monsieur Malossène di Pennac, cioè il grande Mazzini... capro espiatorio... Tra Marchionne e Mancini si potrebbe creare, capito, una sinergia qualora i risultati fossero positivi sia per l'Inter che per la Ferrari. Però devo dirvi, da sincero appassionato di entrambe le realtà, che paradossalmente è messa meglio l'Inter della Ferrari. No, ma te lo volevo dire anch'io, cioè, infatti tu una volta volevi la Ferrari Conte, io proporrei anche Mancini, non è male, eh? Sta convincendo una squadra modesta di essere una squadra forte. Ma sì, io credo. O quasi che, forte. Insomma, io credo che il Mancio stia un po' sfoggiando le sue doti sciamaniche, quasi stregonesche, no? Sì. Nel senso che ha trasferito un po' del suo carisma a questi sgallettati che vestono la maglia nerazzurra. Per quanto riguarda però la Ferrari, invece, mancano poche settimane e mezzo all'inizio del mondiale. Io volevo proprio chiederti cosa stanno facendo la Ferrari in questi giorni. Beh, volevo dirti, a proposito di poche settimane e mezzo, non abbiamo Kim Basinger, abbiamo Marchionne. Però, insomma, mettiamola così, c'è certamente un entusiasmo nuovo, un'energia positiva. La vettura verrà presentata online, sul web, qui alla fine del mese. Però c'è anche molto realismo, nel senso che, come si è visto ancora negli ultimi Gran Premi del 2014, il distacco nei confronti della Mercedes è troppo netto. Insomma, io lo dico ai ferraristi in viaggio anche sulla Salerno-Reggio Calabria di non preoccuparsi se vedete un Ducato che va molto piano, c'è Raikkonen alla guida, quindi rilassatevi. e sappiate che comunque anche nel 2015 non vinceremo il mondiale a Maranello, ecco, sì, questo ci però forse dire. Questa è, questa è la vera grande novità, no? Perché per la prima volta è chiaro a tutti, dichiarato, sottoscritto e controfirmato che la Ferrari parte da outsider e probabilmente non farà bene, certamente non vincerà il mondiale. Mi viene in mente un po' il Milan di Berlusconi, che doveva vincere lo scudetto sempre comunque, no? Anche quest'anno forse, non credo che quest'anno sia stato dichiarato dobbiamo vincere lo scudetto, quest'anno forse no, però normalmente sì. Per la prima volta la Ferrari fa l'underdog, siccome tu mi provochi perché citi il Milan e sai che io sono di Sassuolo. Se ieri sera in Coppa Italia c'era il guardaline di Napoli-Juventus, sì, dava buono il gol lì di quel mio giocatore. Perché mi vuoi male? Dal cognome. Perché mi vuoi male? E il Milan nemmeno in Coppa Italia sarebbe andato avanti, scusate se ve lo dico. Perché mi vuoi male? No, non è che ti voglio male, tu mi provochi, scusami, butti lì il nome Milan all'indomani del verdetto di Coppa, hai capito? Ma no, tornando alla tua riflessione, hai ragione, un atto di onestà intellettuale, devo dirti, da parte di Maurizio Arrivabene, non solo di Marchionne. Continuare a dire che comunque se ti chiami Ferrari hai, devi correre per il titolo, esatto, ecco, hai l'obbligo di vincere il primo campionato della stagione, significa non solo gettare fumo negli occhi a chi sta guidando sulla Pero Cormano, ma anche ingannare un po' il popolo. La Formula 1 è tecnologia, quando tu sei in ritardo ti devi mettere lì, lavorare, investire, cercare di recuperare, avendo la consapevolezza che ci vorrà molta pazienza. Ecco, io te l'ho già detto quando sono venuto a trovarti, sarei molto contento se la Ferrari 2015 somigliasse alla Williams 2014, sì, che non ha vinto gran premi ma ha lottato spesso per la pole position, ha mandato ripetutamente i suoi piloti Massa e Bottas sul podio, perché questo sarebbe il segnale che, diciamo così, la nave va, insomma, in questo caso la rotta è corretta, sì, che il cavallino si rimette al trotto in attesa di andare al galoppo, perché nel 2014 il cavallino Ferrari sembrava ronzinante, qui se vuoi ti cito Don Chisciotte e Sancho Panza, ma non voglio, è vero, turbare gli animi di chi crede che Sancho Panza sia un terzino del Valencia. Tanto l'unica cosa che funziona comunque, mi pare, caro Leo Turrini, da quelle parti, dalle tue parti, dalle parti di Modena, l'unica cosa che funziona davvero è il Sassuolo e anche la pallavolo, ma soprattutto il Sassuolo. Beh, guarda, è un momento, devo dirti, straordinariamente felice, perché se tu consideri l'intera provincia abbiamo persino il Carpi, quale Pardo sarà prossimamente costretto ad occuparsi, sì, perché l'anno prossimo potreste trovarvi in Serie A due centri che non sono capoluogo di provincia, cioè Sassuolo e Carpi, che vanno a giocare contro Juve, Roma, Napoli, eccetera, e magari ci sarà spazio anche per una puntata speciale di Tiki Taka. E poi hai fatto bene a citare anche il volley, perché tra l'altro ha questa eccezione, o comunque una rarità per le nostre realtà, una signora proprietaria presidente, Katia Pedrini, che ha riportato quella che si chiama simbolicamente la Juventus del volley a vincere un trofeo importante come la Coppa Italia dopo oltre 10 anni. Sì, diciamo che la Ferrari deve funziona tutto tranne la Ferrari. Bravo, infatti stavo per arrivare a dirti questo sulla Pero Cormano e Salerno Reggio Calabria, no? Sì. Che è un paradosso della storia. La Ferrari, che è sempre stata il simbolo delle nostre terre, il mito per antonomasia, che deve prendere come modello i calciatori del Carpi, i pedatori del Sassuolo e i pallavolisti del Modena Volley. E così va il mondo. D'altronde, chi vi avrebbe mai detto che Raikkonen avrebbe creato queste code sulla Salerno Reggio Calabria? Eppure, se state viaggiando lì, amici di Radio 24, di Carlo Gente e di tutti i convocati, ne siete consapevoli, c'è la coda e Raikkonen che guida il Ducato. È così. Ciao Leo, io ti voglio bene, a differenza tua, buon anno Leo Turrini. Ciao carissimo. Ciao. Allora, già che stavamo parlando di pallavolo, ieri la nazionale di pallavolo, cioè i rappresentanti della nazionale di pallavolo, cioè il CT Berruto, il presidente federale Magri, sono andati a Scampia insieme a De Magistris, hanno incontrato i ragazzi delle scuole del territorio ed è stato qualcosa di veramente, veramente interessante. Sentiamo Berruto con Giorgio De Luca. Grazie per aver accettato la nostra convocazione. Grazie a voi per l'invito, un piacere. Lei ieri era a Scampia, per chi non lo sapesse, periferia difficile di Napoli, per incontrare i giovani che giocano a pallavolo. Che esperienza è stata per lei? Ma è stata un'esperienza molto bella che ha generato, spero anche in loro, ma in me, un'energia positiva. Insomma, è bello che per una giornata si sia parlato di Scampia, di Napoli, della pallavolo per un motivo bello, insomma, per una storia bella. Di Scampia c'è una storia molto nota in Italia che ha tutt'altro tenore, però credo che sia molto importante non dimenticarsi mai di parlare invece della, come si suol dire, della foresta che cresce, no? E che magari fa meno rumore. Che cosa ha trovato lì a Scampia come in termini di entusiasmo dei giovani? Ho trovato veramente davvero la parola giusta, la parola entusiasmo, ho trovato dei ragazzi, intanto mi riferisco alle persone che hanno messo in piedi questa società e agli operatori, agli allenatori che ci lavorano, veramente uno spirito straordinario di servizio. È chiaro che insomma c'è qualche problema così legato alle strutture, legato a quello che è intorno a questi ragazzi, ma la volontà che ho trovato è stata esemplare e ho trovato anche davvero tanta serenità, tanta, mi verrebbe da dire tanta normalità, nel senso che magari abbiamo un'idea di Scampia come di un posto così particolarmente difficile o inaccessibile, invece io ho trovato davvero tanta normalità, tanta voglia e desiderio di star bene. Per concludere, una curiosità: lei si è fatto un selfie alla Totti? Sì, forse non ha avuto lo stesso richiamo di quello del capitano della Roma, però il suo selfie è stato ritweetato da Renzi. Sì, ma è stato un gioco, naturalmente, visto quell'episodio che era successo domenica nel derby, ho voluto così anche celebrare questi ragazzi in questo selfie, al di là della mia faccia che può lasciar perdere, ma insomma dietro si vedono tanti ragazzi, tanti sorrisi, tanta serenità, tanta voglia, come dicevo prima, di normalità, e quindi insomma se anche questa fotografia ha permesso di parlare un po' di Scampia in termini belli, in termini positivi, ne sono felice. Gente, tu sei per la radio come Zuckerberg per i social network, no? E Pardo è il tuo associato lì di Google, lì come si chiama lì. Tutti convocati. Andiamo sul mercato per un attimo, perché allora Milan destro, c'è lo stop, Milan Channel dice Pazzini resta, potrebbe essere un'ulteriore conferma, ma la storia di oggi è diversa, perché c'è Muriel che, come sapete, è andato alla Sampdoria ed è arrivato con la sciarpa della Sampdoria a fare le visite mediche, ha fatto le visite mediche ed è uscito senza la sciarpa della Sampdoria. Perché? Perché ha un problema fisico, perché è molto indietro di condizione, quindi un problema fisico da risolvere, molto indietro di condizione, non potrà giocare, non sarà alle dipendenze di Mihajlovic, quantomeno abile arruolato per giocare gare ufficiali per un bel pezzo, per un po' di tempo, e dunque la Samp ha chiamato l'Udinese e ha detto: ascolta, il pacco non va bene, fateci uno sconto, vediamo come va a finire questa storia. Intanto su altre voci di mercato c'è, che vi facciamo sentire, cioè El Shaarawy che dice resto al Milan, c'è cioè Zamparini che dà un consiglio per gli acquisti alla Juventus alla voce trequartisti, c'è Toni che parla di Eto'o e c'è Zola che qualcosa vorrebbe. Sì, me lo dicono ogni settimana, sento la fiducia da parte di tutto l'ambiente, mi ripetono sempre che sono e posso essere un giocatore importantissimo per questa squadra, per questa società, quindi il mio obiettivo è quello di rimanere, far bene con il Milan, riconquistare, comunque andare in nazionale e basta. L'unica cosa è che dobbiamo avere un po' più di continuità sia io che tutta la squadra, perché le qualità le abbiamo. Non lo so, lo leggo già i giornali. Io ho chiamato Marotta l'altro giorno, ho detto: Marotta, non è che tu mi rompi le balle tu su Vasquez? Ho detto: no, Maurizio, ti telefonerei. Per cui gli ho proposto, ho detto: guarda, se tu vuoi fare un colpo, prendi Ilicic, che io lo ritengo da Juventus, è un giocatore completamente sottovalutato. Ilicic vale Vasquez sicuramente. Io a Verona sto molto bene, la mia famiglia sta bene, quindi capisco anche molti giocatori, sai, quando arrivano a una certa età si vogliono ancora mettere in discussione, è bello scegliere magari una squadra dove ci sono i presupposti per far bene. Io penso che Tossi viene con la testa giusta, penso che la Sampdoria faccia un bel salto di qualità. Sono molto contento di come la società sta agendo. Mi sembrano molto attivi e molto ben disposti a rinforzare la squadra. È chiaro che non è un mercato semplice, perché comunque tutti si vogliono rinforzare, non è facile in queste condizioni, considerando anche la classifica che occupiamo. Però ci stiamo provando, lo stiamo facendo secondo me nel modo giusto e vedremo, credo che comunque dipenderà anche molto da quelli che sono arrivati, che valore potranno dare in aggiunta a questa squadra, e poi eventualmente valuteremo. Dunque, questi erano El Shaarawy, Zamparini, Toni e Zola. Mario Boni, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Come stai? Ho avuto qualche giornata di febbre, ma fa parte del periodo, chiamiamo così. Ma chi t'ammazza, Mario? Nulla. Due gradi di febbre, vai a giocare al campetto 4 ore, tu. Io ti conosco. Bastano Shaqiri e Podolski all'Inter, alla tua Inter? Beh, direi che cominciamo bene, finalmente Tuir caccia il grano. Caccia il grano, fino adesso va cacciato poco grano. Io credo che ci vorrebbe anche un centrocampista centrale, uno che sappia impostare l'azione da dietro, e poi questo Vidic, tanto vituperato, con la difesa a 4, direi che è difficile metterlo in panchina. Beh, dai, è stato titolare del Manchester United per diverse stagioni, ora dire che magari non è più fresco, ed è vero che non è più fresco, però dire che è un bidone totale, secondo me ci sarà pure una via di mezzo. Infatti, ma abbiamo visto, no? Su tutti, poi in Italia è un gioco al massacro, no? Il Vidic sembrava la più grande pippa della storia, una votata al bidone dell'anno, invece io direi che l'ultima partita ha fatto molto bene, e secondo me è molto, molto complicato toglierlo adesso dall'Inter. Senti Mario, ma tu te lo saresti fatto, non c'era ancora quella moda, ma te lo saresti fatto un bel selfie dopo aver vinto un derby a Pistoia? Sì, non avevo dubbi. Lì è stato geniale, anche perché la forza della tranquillità di chi si può permettere un comportamento del genere nella sua Roma, Totti è stato grande, perché ha fatto una cosa che fa parlare, discutere. Io lo prendo sempre in maniera molto goliardica, molto divertente, non l'ho preso come un gesto irriverente nei confronti dei giocatori della Lazio, ma qualcosa di bello da ricordare. Sì, poi si può discutere sul fatto del giallo o non giallo, perché adesso è stato smarcato questo comportamento, chiunque lo potrà fare, anche l'ultimo dei giocatori del Carpi. Mario, invece ti posso dare una notizia ufficiale: io e te alla Casa Bianca non ci andremo mai da Obama. Ma chi lo sa? Aspetta, dirlo Carlo, aspetta. Se mi prendono come allenatore in NBA, ti prendo come assistente. Va bene, ok, affare fatto. Mentre Marcone Belinelli ci è andato e si è anche beccato da Obama Belinelli quanto manca ai miei Chicago Bulls. È stata bellissima quella scena, lui era lì dietro, l'abbiamo vista tutti un miliardo di volte, ha abbassato gli occhi sorridendo e poi ha detto queste cose. Sicuramente sono emozionato, essere qua per me è qualcosa di spettacolare, fantastico. Ho avuto la possibilità di conoscere Obama, ha speso bellissime parole su di me, quindi sono veramente contento. Beh, sicuramente l'avevo sempre vista da fuori, essendoci dentro è molto molto bella, abbiamo visto varie stanze, quindi sicuramente è una cosa importante e molto valida, è semplicemente stupendo essere qua, c'è poco da dire, nel senso che è una cosa che non capita a tutte le persone comunque di essere qua alla Casa Bianca, di conoscere il Presidente degli Stati Uniti d'America e essere premiati comunque dal Presidente. Beh, ci sono tantissime cose che sono successe quest'anno, sicuramente anche aver conosciuto comunque il presidente Napolitano, adesso comunque il presidente Obama, la gara tirata a 3 punti, il titolo NBA, quindi sicuramente un'annata importante e che dire, sono stracontento. Hai visto Mario Boni dove si può arrivare partendo da San Giovanni Persiceto, grazie a una palla e a un canestro? Sì, io direi che il Bailey è stato bravo ad attendere il suo momento, ha cambiato tante squadre, ma ha saputo scegliere bene le sue squadre. Direi che è quello che è arrivato con meno aspettative nell'NBA ed è quello che sta facendo meglio, forse perché ha avuto e ha un ruolo molto più specifico sia di Gallinari che di Bargnani, e quindi tiratori così precisi è difficile trovarli, e San Antonio direi che è la giusta squadra dove potersi saltare. Ma tu credi che adesso si parla di uno scambio di Bargnani che ha avuto un miliardo di problemi anche soprattutto fisici a New York, in una New York disastrosa ancora, credi sia il momento di riflettere sulla opportunità, sulla possibilità di tornare dalle nostre parti? Ma io direi che a livello economico non c'è paragone. Vediamo il nostro Gigi D'Antoni, che è il più europeo di quelli che sono nell'NBA, ha grande difficoltà a giocare, uno perché ha scelto male la squadra, ma in ogni caso è là perché il contratto che ha in NBA è difficilmente replicabile in Europa. Io credo che nessuno dei giocatori che attualmente sono in NBA possano trovare altrettante soddisfazioni economiche qui in Europa, tantomeno Bargnani, che viene da un anno di inattività e che io non credo che ci siano squadre in Turchia o... lo dico perché è l'unica nazione che possa offrire contratti molto alti, sì. O l'Olympiacos Panathinaikos o la Russia possa offrire un contratto del genere. Io credo che Bargnani rimane sempre una prima scelta, da una media nei suoi anni NBA di 15-17 punti di media, e quindi un lungo di 2,12-2,13 che sa tirare da 3. Io credo quindi che con un contratto diverso lui possa rimanere ancora in NBA. Mario, invece, nel nostro campionato giro di boa, finito il girone di andata, Milano dominante, ma non vedo alternative sinceramente a Milano, che però in Europa sta facendo una fatica pazzesca, sta facendo una fatica eccessiva secondo me. Fatica anche perché il grande Daniel Hackett è un giocatore che a me piace tantissimo, manca la continuità di poter giocare il doppio impegno, in modo che la squadra trovi un modo di, come dire, un equilibrio fisso, ecco, sia tra l'Eurolega che il campionato. Il campionato italiano al di là di Milano non è granché, anche gli americani, fammi spendere una parola su questi americani, sono spesso inguardabili o di scarso interesse tecnico, quindi io dico forza a tutte le società che ci sono, i presidenti che ci stanno ascoltando, investite in giocatori italiani e andate a vedere nei campionati minori, ci sono tanti campionati minori che hanno giocatori buoni, e un po' di sforzo, un po' di coraggio, un po' di voglia di reinvestire sul tessuto italico, che è sempre molto valido. Però alla fine questo campionato hai fatto benissimo, però tutto sommato questo campionato sta ci sta presentando in realtà come Trento ad esempio, che ha fatto questa scalata. Ma mi stai dando ragione, Carlo. Trento, sì, bravo, dimenticavo. Hai ragione, Trento. Ma noi abbiamo Davide Pascolo e abbiamo gli altri, Spanghero eccetera. Davide Pascolo ha cominciato dalla DNB, ha fatto tutta una trafila con l'ottimo coach Maurizio Buscaglia. Ecco perché se Pascolo deve essere sicuramente la punta di un iceberg, ci sono tanti altri giocatori che vuoi per ignoranza da parte delle grandi squadre o paura di proporre ai tifosi dei giocatori che non hanno nomi esotici, ci sono tanti giocatori buoni, non come Pascolo, però sicuramente giocatori che possono dare e dire da loro anche in Serie A. Sì, ma d'altra parte, anche da altre parti, ragazzi, abbiamo visto Cremona, abbiamo visto a maggior ragione Reggio Emilia presentare un quintetto di partenza con quattro italiani, ci sono italiani che crescono, c'è Fontecchio, c'è Amedeo della Valle, insomma non mi sembra siamo così sfigati da questo punto di vista. Ma proprio perché non siamo sfigati c'è il dovere, secondo me, la voglia di dover più investire nei giocatori italiani. 7 stranieri attualmente sono troppi in Serie A, proprio per il livello. Se tu mi dici noi abbiamo 7 giocatori di livello incredibile, allora io me ne starei zitto. Io invece vedo il livello di chi non è dei 3-4, per l'amor di Dio, 3-4 sono sicuramente valido, gli altri, ti dico, non è che farebbero bella figura neanche in categorie come la Silver o anche la DNB, quindi io dico forza, andate in giro, ritrovate la voglia di girare i campionati e di proporre qualcosa di nuovo. Grazie Mario. A te Carlo, ti abbraccio sempre, grazie Mario Boni. Traffico. Tiago Splitter, Danny Green, Patty Mills, Marco Bellinelli, who we miss on the Bulls. Tutti convocati. E torniamo ai convocati, torniamoci dunque. Massimiliano Vicenza, buongiorno. bisogno, signor Genta. Io come messo lei coi selfie? Come messo lei coi selfie? No, no, non faccio mai selfie. Non faccio i selfie. No, non si fa i selfie, no. No, no, comunque io sono un tifoso del Napoli, le volevo porre questa domanda, no? Lei giustamente dice che non vede un complotto, però secondo lei, per rispetto di tutti i tifosi che ci sono in Italia, quindi anche per le squadre piccole, è giusto che già dall'estate si parlava dello scudetto tra Juve e Roma? Si è sempre parlato tanto che lo scudetto se lo sarebbero giocati la Juventus e la Roma, come ancora oggi i giornali fanno. A parte che Napoli, è vero, io sono un tifoso del Napoli, all'inizio anche il Napoli era stato messo dentro, poi la campagna acquisti che ha fatto il Napoli l'hanno un po' scherzato, però già da quest'estate si parlava, se non addirittura alla fine del campionato scorso, che quest'anno lo scudetto se lo sarebbero giocati loro due. Infatti, guarda caso, non ci eravamo sbagliati, ma non è no, però attenzione Massimiliano, non è che perché si è detto questo poi succede, cioè succede perché alla fine non ce l'avamo sbagliati, queste due sono le squadre più forti, no? Poi non la interrompo più, però se lei guarda la Roma e la Juventus, una domenica sì, una domenica l'altra, tutte e due hanno sempre qualcosa a favore. Questa è la verità. Se lei guardi da quando abbiamo iniziato il campionato, io non dico che tutti i domenica è così, però quando va bene alla Juve una domenica, l'altra domenica va bene alla Roma. E se loro, guarda caso, hanno preso un bel vantaggio rispetto alle terze. Ho capito. Cioè, sarebbe bello avere questo potere condizionante sull'andamento dei campionati, sarebbe interessante avere questo potere condizionante sull'andamento dei campionati, la verità è che i media non ce l'hanno, cioè semplicemente Juventus e Roma sono le due squadre più forti, questo lo sapevamo già dall'estate, l'abbiamo detto, non ci siamo sbagliati, ci siamo in parte sbagliati sul Napoli perché che sta facendo una stagione molto ondivaga, che ha conquistato, è vero, parzialmente salvando la Supercoppa italiana, però una squadra che ha questo tipo di andamento, che ha questo tipo di ripetitività nell'errore, soprattutto in fase difensiva. Vabbè, non possiamo dire che è colpa di chi l'ha detto quest'estate che la Juventus e la Roma erano le più forti, e non possiamo dire nemmeno, siamo onesti, sia colpa di un disegno oscuro dell'uomo nero di Moggio, degli arbitri, se il Napoli non è in lotta per lo scudetto. Dai, facciamo i bravi. Ci può stare. Ci può stare, altro che. Chi tocca? Luca da Modena? Ciao Genta, grazie di avermi convocato. Grazie a te. Volevo uscire un pochettino dagli arbitri, da Juventus e Roma, anche se magari non si è, ti ringrazio, non siete magari però molto informati, parlando su della Serie B, volevo chiedervi diciamo così, di parlare un attimino di più del fenomeno Carpi, perché penso stia ottenendo un risultato importantissimo, sperando che poi lo porti fino alla fine e quindi a conseguire la Serie A. Ma l'abbiamo appena fatto, no? Con il tuo conterraneo Leo Turrini. Ho sentito per un attimo, purtroppo non ho potuto ascoltare tutto l'intervento. E allora vi chiedo scusa. No. E macchiato purtroppo da però una scoperta di doping di uno dei giocatori, sì. E io volevo chiedere proprio questo. Cocaina, ecco, sì, quindi problemi, ancora peggio, esatto, forse. Sì. E questo potrebbe influire a livello, cioè qualcuno potrebbe fare ricorso e quindi influire sulla società e quindi perdere punti o cose del genere, assolutamente no. Cioè è una questione proprio personale del calciatore che verrà squalificato, che porterà le sue conseguenze, però non si è mai visto una cosa di questo tipo. Era una paura più che una curiosità. No, se la levi pure non può accadere in punto di legge. Davide Alessandria, buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Arbitri, non arbitri, selfie, arbitri. La vita. È un argomento che non può. Com'era il gol del Sassuolo ieri sera? Ma purtroppo non l'ho visto, francamente, quindi non ho proprio visto la partita. Però io volevo fare una considerazione, perché io penso che noi non abbiamo mai perdonato realmente quello che è accaduto a Calciopoli. perché le stesse cose ci venivano raccontate qualche anno fa, ma no, ma dai, ma quando mai, ma non c'è la malafede, ma non c'è questo, e poi abbiamo scoperto, sì, abbiamo vissuto arbitri sulla nostra chiusi, pelle. Arbitri chiusi negli spogliatoi. Vabbè, poi tra vero, falso e millantato, perché poi credo che sia uscito fuori anche il 50%, non tutto, però quello che voglio dire è un po' come se Armstrong ritorna a correre il Tour de France, vince il Tour, lo stravince, a tutti viene il dubbio. E qui è più o meno la stessa identica cosa. Quindi Davide, che facciamo? Io penso che l'unica cosa che possiamo fare è, adesso come provocazione, è che dovevano partire dalla terza categoria e non dalla Serie B. Perché il danno che hanno fatto al calcio italiano è veramente alto. E poi ci vuole sicuramente la moviola in campo. Ma non lo so, questa questione è l'unica cosa. Lei perché, si allinea con il mio amico De Laurentiis, quindi, che vuole la moviola in campo. Perché... Ma è l'unica regolarità che abbiamo, che è possibile, come c'è nel tennis il falco, e dopo uno può richiedere vedere il falco, no? Ma io al falco, io sono d'accordo sul falco, sono d'accordo sul falco, nel senso di occhio di falco, nel senso di tecnologia sulla linea di porta. Gli allenatori possono richiedere 3 interventi nell'arco della partita. Cioè, il problema è che quando parlano, tipo Allegri, che ha detto che l'arbitro di domenica non si può discutere. Tagliamento, ma qualche anno fa, dopo la partita, andatevi a risentire l'intervista che gli hanno fatto quando gli hanno annullato il gol a Montari, se si poteva discutere o no. Quindi sì, ma guardi, siamo sempre lì. Il discorso è che non ci fidiamo per il nostro tipo di mentalità. A parte che è bello discutere, quindi ci piace da morire, polemizzare, chiacchierare, discuterci sopra, e questo, in questo secondo me non c'è nulla di peccaminoso. In secondo luogo, se anche ci fosse la moviola in campo, poi andremo a fare la moviola dei movioliste e la contromoviola della moviola del giorno dopo e quella del martedì e del mercoledì. Il problema è che, l'ho detto molte volte, continuo a ripetermi purtroppo, avvertiamo un'esigenza di certezza del diritto quando si tratta di calcio che ha poco a che spartire con quella che dovrebbe essere la filosofia di uno sport profondamente imperfetto come il pallone. Poi se vi piace la moviola, ognuno ha il diritto di tenersi le sue idee, così come io ho il diritto di tenermi le mie. A me la moviola in campo, il concetto di moviola in campo non piace. Andrea, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Zeta. Io sono tifoso del Sassuolo per sbaglio, nel senso che io sono tifosissimo dell'Inter. Andavo allo stadio fino a prima di Calciopoli, dopo Calciopoli ho smesso di andare allo stadio, anche perché così non me la sentivo più. E volendo accompagnare i bimbi allo stadio a vedere il Sassuolo, che loro invece sono appassionati di Sassuolo, mi capita di vedere tutte le partite del Sassuolo. Per sbaglio, passava di lì e sei innamorato del Sassuolo, che peraltro gioca un calcio meraviglioso. Assolutamente sì, molto divertente. La cosa male, però, da interista, che dico è: ma perché non si parla di tutti i torti che ogni partita il Sassuolo subisce? È un qualcosa di clamoroso. Io ripeto, e sono tifoso interista, ma è clamoroso il numero di furti che il Sassuolo subisce ad ogni partita. È clamoroso, Zentas. Clamoroso. In televisione, le assicuro, non si vedono. Fanno vedere un episodio solo. Un solo episodio, ma le assicuro derubati sistematicamente, lei dice. Sicuramente sì. Ripeto, gente, non sono un tifoso. No, ma ho capito. Francamente, io non ho una casistica precisa dei torti arbitrali subiti dal Sassuolo in questa stagione. Mi vengono in mente i più eclatanti. Quello di Roma fu eclatante. Quello di ieri sera a me pareva fuori gioco, e poi mi pare sia stato dimostrato che era fuori gioco, sebbene per la solita questione di millimetri. Poi per il resto non ho una casistica precisa dei furti subiti dal Sassuolo. La faremo, che vi devo dire. Intanto il Sassuolo, se non avesse sti furti, vincerebbe il campionato in carrozza. Quindi ci può stare, sì, sarebbe bello. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, tutti convocati domani pomeriggio alle 2:00.